Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. In attesa di conoscere il verdetto del giudice sportivo sulla prova televisiva chiesta per Adriano, parere personale, una buffonata, cominciamo a dare, se non un verdetto, almeno un parere su questa famigerata Spidercam che ieri ha molto incuriosito, mi pare, tutti gli ascoltatori. Quella nuova telecamera che ha flagellato i telespettatori di Sky nel derby di domenica sera. Intanto un bentornato affettuoso ad Antonio Di Pollina, critico televisivo di Repubblica. Antonio, ciao. Ciao, buongiorno, eccoci. Dunque, che cosa Antonio Di Pollina pensi della Spidercam? Lo si è letto ieri su Repubblica. Passo alla citazione, sono autorizzato? Ma prego. Prego. Su Sky si vede un derby pressoché aereo, con nuovi tipi di telecamere volanti in azione che ogni tanto danno la sensazione del vuoto d'aria, con cambi di prospettiva, controcampi improvvisi con una delle due squadre che si mette ad attaccare dall'altra parte rispetto a prima. Ad un certo punto Ibra tenta di vendicare tutti centrandone una con una pallonata, peraltro deviata da Abbiati, aggiungo io. Ma è inutile, quelle dannate hanno la pelle durissima. La novità è una cosa che si chiama Spidercam, telecamera futuribile che richiama certe carrellate di Kubrick in Shining, ma lui lo faceva per fare paura. L'inviato a San Siro Alciato sostiene che può viaggiare sul filo a 35 km l'ora. Poco dopo in studio Bonanni butta, e come certi pescatori esagera, 70 km orari. Forse perché lui è comodo in studio e non rischia di vedersela arrivare addosso. Io partirei, Antonio, dal record assoluto che Sky ha fatto registrare domenica sera per Inter Milan, 2.886.762, in questo caso per via dei decoder, come è noto, si possono contare esattamente spettatori, con il 10% di share. Quindi da quel che ho capito, che ho letto da te, che penso io e che ho sentito ieri dalla gran parte degli ascoltatori, direi dal punto di vista quantitativo un risultato eccezionale. Dal punto di vista qualitativo, il gradimento anziché l'audit, insomma, forse si può discutere. Sì, quel dato poi risente sempre del... secondo me va sempre poi valutato anche un po' per difetto, perché di fronte ai decoder poi ci si riunisce come sempre tra amici e così via, quindi io tendo ad aumentarlo sempre un po'. Sulla qualità hai assolutamente ragione, sulla Spidercam o come diavolo si chiama, idem. Temo che il problema sia San Siro, sia la copertura di San Siro soprattutto, che consente di tirare fili da una parte all'altra e farci viaggiare queste macchine. Forse quando si è tutte le cose negative che si sono dette su quella copertura ormai in anni lontanissimi ci tornano addosso in questo caso, perché solo a San Siro Sky si mette a fare esperimenti di questo tipo. Quindi questa è un aggravante, cioè non solo quella copertura ha distrutto l'erba per sempre, ma consente queste acrobazie. Esattamente. Guarda, io non parlo sicuramente da nostalgico, come sai, sono abbastanza aperto alle novità e così via, ma certo. Domenica sera, quando ho visto che a un certo punto si vedeva una delle due squadre attaccare dall'alto e dall'altra parte rispetto alla prospettiva normale, ho detto non siamo qui, siamo contro l'ABC proprio della ripresa, e quindi quello è davvero un'esagerazione assurda. Ha scritto tra gli altri, ma già sono abbastanza sommerso dalle mail in questi giorni, e non soltanto a proposito della Spidercam, ma anche per la Spidercam, ha scritto Nicola Guarino, che è un regista, un aiuto regista Rai, che era intervenuto un paio di settimane fa sempre su argomenti di questo genere, e la descrive molto bene. No, tu hai tirato fuori questa sensazione del vuoto d'aria in aereo, che è esattamente quello che abbiamo provato l'altra sera. Lui la descrive in questo modo: è una telecamera che si muove lungo cavi, questa è una descrizione tecnica evidentemente, così come farebbe un ragno quando si muove sui fili della ragnatela, e da qui deriva il nome tra l'altro. Telecamera giroscopica, può ruotare di 360 gradi e in base alla tensione dei cavi può scendere e salire, dando così modo all'operatore di fare diversi tipi di inquadratura. Nasce per fare riprese di tipo aereo, per posti al coperto o spazi limitati, dove un aereo chiaramente non potrebbe entrare, e poi spiega a che cosa è dovuto il senso di smarrimento dello spettatore. e va avanti e ti chiederei un'opinione proprio se condividi insomma questa. Lui dice: in un qualsiasi film esiste un campo di ripresa, il campo ad esempio di due persone che parlano uno di fronte all'altro è stabilito dalla linea degli occhi, per cui tutti i punti di ripresa devono avvenire solo da una parte della linea, in modo che per esempio nei primi piani le persone sembra si guardino, mentre se invece si puntasse una camera dall'altra parte della linea il campo risulterebbe scavalcato e a noi sembrerebbe che i protagonisti guardino dalla stessa parte. Ecco, Il senso di fastidio della Spider-Cam può essere spiegato così: tracciando una linea immaginaria da una parte all'altra delle porte, tutte le camere che riprendono la partita devono stare dalla stessa parte. Invece il regista, giocando con la Spider-Cam, spesso scavalca il campo passando da un totale all'altro e disorientando completamente il telespettatore. È la versione tecnica, direi, di quello che ci hai raccontato prima. Sì. Fermo restando che non è neanche solo una cosa visiva questa elementare questione di assistenza al fruitore, allo spettatore, perché cioè è anche nei libri e nei romanzi, se c'è un dialogo a un certo punto devi metterci "rispose lui, disse quello", perché rischi certo. di perdere assolutamente chi sta dicendo cosa e da che parte si sta svolgendo l'azione in quel campo, e quindi è la perfetta trasposizione in tecniche televisive. Detto questo, io ho citato Kubrick non a caso, perché davvero fu lui, ma con grandissima innovazione, con grandissimo spirito, a usare per la prima volta una cosa che si chiamava Steadicam, che a questo punto è un ferro vecchio rispetto a queste cose, per seguire il famoso bambino nel triciclo nei corridoi dell'albergo di Shining. A cosa serviva? Serviva appunto a dare questa dimensione assolutamente partecipativa dell'azione, ovviamente senza controcampi, con questo aggeggio nuovo che per miracoli elettronici stava in equilibrio e non faceva ballare l'immagine. Quindi da allora, da Kubrick a domenica sera, direi che è un po' l'evoluzione del mondo, cioè tanta evoluzione e poi i risultati, oddio. Oddio. Risultati, scrive per esempio Alfonso Filpi, risultati una fortissima emicrania e il rischio che la prossima partita, scrive sempre questo ascoltatore, venga trasmessa con un gradevole effetto seppia e con aperture e chiusure in grand'angolo. E pensare che, Antoine, se non so se condividi, pensare che usata con molta, almeno tre volte, più parsimonia, e evidentemente trovando il modo di far sì che lo stacco non vada a sovrapporsi all'inquadratura precedente o successiva, qualche non dico utilità, forse no, ma qualche curiosità carina ce la potrebbe anche dare, secondo me. Sì, ma ce l'ha dato anche in passato, perché finora, e tieni conto che, come dicevamo, la cosa viene usata solo a San Siro per i motivi che abbiamo detto, sì. E solo per grandissimi match, deve essere almeno il derby o Milan-Juve o Inter-Juve. Ogni tanto mettevano una cosa che si chiama fly cam, che a questo punto è già un antenato della spider cam, che correva su un filo solo e senza evoluzioni, senza 360 gradi e senza queste cose, e effettivamente se usata bene con parsimonia al momento giusto, così. Quando invece un regista particolarmente creativo, magari di suo, si ritrova a disposizione un aggeggio di questo genere, poi è difficile anche farsi passare la tentazione di fare cose folli. Per esempio io ho visto un calcio di punizione ripreso dal basso con la telecamera che scendeva, e ho intuito che dall'altra parte Giulio Cesare c'era arrivato vedendolo sbucare dal basso oltre la barriera con la mano. Beh, no, dai ragazzi. Ecco, ma esiste un... perché insomma, siamo abituati al Moloch della Rai, siamo abituati a una maggiore agilità e sensibilità da parte di Mediaset dentro certi limiti. Esiste la possibilità che Sky, essendo, come dire, da un certo punto di vista più nuovo e da un certo punto di vista forse più sensibile, esiste la possibilità che questa valanga di dissensi, anziché di consensi, per questo uso smodato di Spider-Cam, insomma, faccia un certo effetto e valga a farla rottamare senza bisogno di decreti ministeriali? Io non solo ci spero, ma ci credo anche un po'. Da questo punto di vista, il totale dissenso che si è registrato, vabbè, sarebbe da pazzi a quel punto andare contro una sensazione assolutamente diffusa, anche perché Sky, dalle parti di Sky hanno molti difetti, ma stanno anche abbastanza attenti a capire quello che va, quello che viene gradito e così via. Insisto, stando comunque in un contesto in cui personalmente non ci tengo particolarmente a rifiutare innovazioni, per esempio, certo. Non so se hai frequentato l'alta definizione che stanno dando le partite su grande schermo con l'alta definizione e così via. Beh, se a uno interessa la nitidezza delle immagini, la cosa, il particolare, così via, beh, francamente è un altro film. Certo. Dopodiché liberissimi tutti di, invece di restare molto attaccati a una visione antica. Poi, per esempio, dico quest'ultima cosa, cioè, per esempio c'è una differenza clamorosa, ormai, ma davvero incommensurabile tra queste cose, tra questo tipo di riprese e quelle volte in cui capita che c'è un'esclusiva Rai, tipo l'Under 21, sì, riprese di questo genere, lì davvero si precipita all'indietro con un salto quasi indescrivibile. Sì, è vero, stiamo galleggiando tra salti eccessivi nel futuro, come è stato l'altra sera a San Siro, e poi ogni tanto davvero l'effetto sepia, no? O qualcosa del genere quando ritorna in campo Mamma Rai. Sto sempre perlustrando le agenzie per vedere se arriva questa notizia dal giudice sportivo. Aia. No, voglio sapere che cosa ti aspetti tu, ma questo anche se non c'entra col motivo della conversazione. Non lo so, anche qui mi sembra che, guarda, detto proprio da, non addetto ai lavori in questo caso, ma da, mi sembra che dopo il derby stia girando nell'aria una sorta di risarcimento morale di un qualche tipo per quanto è successo, e finirà che potrebbe andarci di mezzo davvero Adriano, cosa che adesso non lo so, non sono così addentro, magari potrebbe fargli bene in vista Champions, ma magari fare un'altra partitina di campionato per salire ancora un po' più di forma di condizione poteva non guastare. Poteva non guastare. Senti, chiuderei con la serata per certi versi drammatica che ti aspetta, perché doppio aia, perché uno che fa il critico televisivo per un grande quotidiano di informazione, ho la sensazione che quante serate aspettano di Sanremo? 5. Sì, sono 5. Quindi ecco, qui non lo so, che cosa fa uno a poche ore di distanza dall'evento? Vai in ritiro, a digiuno, guarda. L'ultima cosa che ho fatto adesso è controllare bene il calendario della Serie B di questa sera per capire quale partita scegliere da tenere sul televisore di fianco come ancora di salvezza per buttare l'occhio spesso e volentieri e per salvarmi dalla parte di qua. Poi al di là di questo, provare a smontare un po' la pesantezza che ci stanno mettendo tutti quanti su questa cosa e a pigliarla con un po' di leggerezza. Qui sembra che crollerà il mondo, certo, se si farà sotto il 28% di ascolti, quando Sanremo è una sorta di cosa in carta pecorita ormai da quel dì e si va avanti per questioni, vabbè, certo. Vabbè. Sarebbe troppo lungo spiegare, ma inserire elementi di leggerezza e dire ragazzi pigliamola un po' più leggera complessivamente questa cosa, perché altrimenti non ne usciamo davvero, quel tentativo bisogna farlo secondo me. Anche perché, per riprendere la frase da cui sei partito, il mondo sta crollando comunque, anche se peraltro. Anche peraltro, e ai noi purtroppo, se anche Sanremo facesse il 98% di share non andremo molto meglio. Posso suggerire Livorno Bari comunque per stasera? Sì, era anche stata una mia opzione. Non mi sembra ci sia grandissime alternative, è lo scontro al vertice della B, credo che valga un anticipo di una partita di A nella prossima stagione, perlomeno lo auguro a Livorno e Bari, insomma. Perfetto, seguirò fedelmente. Comincia a beccarti Bonolis, tanto per cominciare, poi segui quello che ti pare a latere. Grazie ad Antonio Di Pollina. Grazie a te, a tutti. A presto. Torna molto il concetto di PlayStation nei messaggi che leggo e nei messaggi che mi state mandando voi, ed era anche uno dei concetti che Nicola Guarino, cioè questo regista che mi ha mandato molto cortesemente questa specie di scheda tecnica, io non sono arrivato poi alla lettura integrale di questo scritto, ma ad un certo punto lo dice, utilità allo scopo della ripresa televisiva, scrive e si domanda a Guarino, vicino allo zero, costo molto alto, qual è l'idea di fondo? È una sorta di volontà di far credere allo spettatore di stare dentro a un videogioco, facendo del calcio, più che uno sport, una rappresentazione spettacolare, un passatempo sempre più ludico. Insomma, se, come si era detto in altre occasioni, per un periodo si è guardato al cinema come riferimento per le riprese delle partite di calcio, ora il riferimento sembra essere diventato quello del videogioco. Grazie allora anche a Nicola Guarina, non soltanto ad Antonio Lipolina per questo capitolo che può darsi adesso vi interesserà approfondire oppure vi butterete su altri argomenti. Sentiamo Pio dalla provincia di Foggia, buongiorno. Buongiorno. Dica. È da parecchio tempo che sto cercando di parlare. Allora, io sono uno sportivo, quindi non mi interessa di tifosi, non tifosi, eccetera. Quelli per me non esistono, insomma. Dopo aver visto una partita così bella tra Inter e Milan domenica scorsa, mi sento le polemiche, le cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non sarebbe più bello che si pensasse veramente a come si gioca a calcio? Caro Pio, sarebbe bello sì. Nel caso di domenica poi ci sarebbe stato da discutere, da approfondire, da farsi delle moviole tecniche, ma non delle moviole a capire, cioè quelle che intende lei, per ripassare magari certe azioni, non rallentare, dico moviola solo per, diciamo filmati, non moviole, cioè per rivedere a velocità normale tante cose che avrebbero potuto cambiare quella partita. Prodezze ed errori, gli errori anche dilettanteschi in qualche caso della difesa del Milan, certe prodezze invece dei suoi attaccanti, perché io continuo a pensare che sia stato più decisivo nel bene e nel male il Milan di quanto non sia stato l'Inter l'altra sera, anche se l'Inter in 3, 4, 5 occasioni in cui è riuscita a operare le sue percussioni è stata addirittura implacabile, e penso ancor più alla primissima occasione, quella che Cambiasso ha costruito per Stankovic dopo una magnifica azione in velocità, penso ancora più a quelle che ad altre che poi si sono riviste in più dopo. Però Pio, questo è un paese in cui conta soltanto l'episodio, e più l'episodio è torbido e più stia certo che il gradimento per quella partita è alto. Da Pavia ha chiamato Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo anch'io tornare sulla prova televisiva che è stata chiesta per Adriano e che vedo lei, dal mio punto di vista, molto giustamente ha commentato come decisione assunta. Però mi sembra che lei contraddica un po' quanto ieri ha detto, dicendo che le faceva specie che fosse stato concesso un gol, il gol di Adriano, quando la palla non sarebbe andata in rete, certo, senza l'intervento della mano. Questo, mi scusi, ma non c'entra assolutamente niente, perché lei deve attenersi esclusivamente al regolamento. Il regolamento dice volontarietà o non volontarietà dell'intervento. Certo. E per me è volontarietà. Ma è volontarietà. È volontarietà quando in una frazione di secondo colpisce la testa, certo, e poi il braccio. Assolutamente sì. Bravissimo. Cioè, una frazione di secondo uno fa tempo a avere la volontarietà. Provi lei ad avere l'età e la destrezza di un giocatore, e poi veda se Adriano è un po' più pachidermico di Girardino, ma vedrà se gli Adriano, i Girardino, gli Inzaghi in una frazione di secondo, ma anche meno, non riescono ad azionare un colpetto di braccio o di mano o di cosa. Comunque volontarietà o involontarietà, cioè se vuole andiamo avanti un altro paio di settimane, se invece non vuole no, ma non c'è nessuna incoerenza comunque in quello che ho sostenuto. Io credo che sia una buffonata, e non credo, sono certo che sia una buffonata questa richiesta di prova televisiva, per una ragione molto semplice, perché non può inficiare il risultato, che è l'unica cosa che conta. Se anche Adriano il braccio, come stavo dicendo prima, lo avesse azionato volontariamente, ma ripeto, in quella frazione di secondo, non mi sembra questa una ragione sufficiente per un ricorso ad una prova televisiva, che è nata, lo ripeto, esclusivamente per episodi legati all'indisciplina. Quando è stata usata la prova nei confronti di Adriano Qualche settimana fa si parlava di un cazzotto, le tre giornate potevano essere tante, secondo me lo erano, ma è diverso perché è nata per cogliere fatti disciplinari sfuggiti all'arbitro. La smania di protagonismo del procuratore federale Palazzi, no? Uno che ci ha messo 7 mesi per accorgersi che a Catania nell'ultima partita del campionato scorso c'era forse un pochino di gente in campo, in eccesso, e dopo 7 mesi si è interessato di questa vicenda. Qui dopo 12 ore è riuscito a deferire Adriano e a quindi a costringere il giudice sportivo a far ricorso alla prova televisiva. Bah, io credo che il calcio avrebbe bisogno anche di giudici migliori a questo punto. Michele da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, senta. Dica. No, niente, volevo soltanto confermare quello che avevo sentito dal giornalista di Repubblica in quanto... insomma, si parlava della Spider-Cam. Sì. Io, penso che comunque... i registi, sento un fastidiosissimo ritorno nel telefono, quindi faccio fatica a parlare. No, dicevo che comunque non mi è piaciuto come sono stati fatti i lavori di ripresa, forse questi registi dovrebbero un attimino fare un pochino più di corsi, e sì. Comunque quando un appassionato di calcio come me cerca di vedere una partita e si immagina già, magari prevedibilmente, come può andare un'azione, bene o male che sia, cioè è stato completamente stravolto. Quindi io credo che forse se magari questa cosa tecnologica potrebbe anche andare in meglio. Spero che comunque i registi di Sky facciano qualcosa in merito a fare in modo che questa cosa qua possa andare un pochino meglio. Ma non si facciano prendere, Michele, secondo me soprattutto, non si facciano prendere dalla smania di esibire ad ogni costo il nuovo ritrovato, perché preso a piccole dosi e usato solo in determinate circostanze con molta più parsimonia, io credo invece che potrebbe essere uno strumento di curiosità che può arricchire una ripresa televisiva. Usato come l'altra sera, è soltanto un motivo di emicrania, che infatti ha creato nient'altro che proteste e quasi, quasi nessun gradimento da quel che risulta. Da Treviso ha chiamato Gianni, buongiorno. Buongiorno, signor Garantini. Complimenti per la sua trasmissione. Volevo intervenire per il derby, sempre dell'episodio arbitrale, però questa volta è il contrario. Cioè, ci lamentiamo sempre per gli arbitri guardaline che non danno rigori o fuorigioco. Però domenica sera ho visto Inzaghi 2 volte inveire brutalmente contro i guardaline. Anche tre. Mm-hmm. E penso che gli abbia detto di tutto improperi, e dopo ha dimostrato che i guardaline avevano ragione. Quindi penso che sia il caso anche, nel caso di Inzaghi come tanti altri giocatori, che dopo aversi visto le immagini che guardano a casa, che si vergognino e anche chiedano scusa, perché penso che i guardalini in questo caso dimostrano quanto bravi sono e non sempre solo bravissimo cazziati, diciamo, scusi la parola, per rigore non dato, per fuori gioco non dato, perché penso che è stato vergognoso come Inzaghi si è rivolto e nessuno ha preso provvedimenti, nessuno ha spezzato una lancia, nessuno ha amplificato questa cosa. Sono d'accordissimo con lei, Gianni. Io l'ho scritto stamattina sulla rubrica del Sole 24 Ore che ho al martedì, sottolineando proprio questa cosa di maleducazione estrema. Io andrei oltre, questa non è solo maleducazione, è anche il tentativo di condizionare un guardaline, perché è palese questo, no? Perché oltre alle proteste e a accenni di insulti che poi non si capivano bene, c'era anche lo sfottere il guardaline, che è un modo, io non dico che Inzaghi abbia costruito la carriera anche su quello, ma diciamo comunque che non gli ha molto nuociuto, no? Perché cosa vuol dire? Vuol dire mi sanzioni un fuorigioco, me ne sanzioni 2, ma io continuo a protestare perché al terzo è più probabile che nel dubbio la tua bandierina resti abbassata, no? Quando ieri sera io ho sentito parlare di prova televisiva, ma ero già uscito dalla redazione, quindi non è stata una cosa imprecisa e nessuno mi ha detto il perché, io istintivamente ho pensato che fosse per Inzaghi, ho pensato che questo procuratore federale così solerte per una volta avesse centrato il bersaglio, e quindi visto che non aveva provveduto Rosetti, perché c'è anche poi un'altra cosa da far notare: se gli arbitri vengono trattati in quella maniera dai giocatori, allora la lesa maestà, non le dico farina, ma la lesa maestà scatta in maniera implacabile, ma se in quel modo incivile vengono trattati i loro collaboratori, invece la gente come Rosetti fa finta di niente, no? Che è stata veramente una cosa abnorme l'altra sera. Io su quello avrei chiesto l'intervento di una prova televisiva, e invece quindi sono completamente d'accordo con lei. Nicola, chiamato da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno, levito i complimenti di Rito, volevo dire soltanto due piccole cose. Sì. Tra tutti gli attestati di stima per Bulgarelli, vorrei segnalare quello di Franco Colomba e dell'Ascoli, che ha giocato sabato col lutto al braccio. È un piccolo gesto che credo abbia fatto piacere a tutti gli estimatori di Bulgarelli, anche se non è stato segnalato mai abbastanza dalle televisioni e dai giornali. Mm. E poi un'altra piccola cosa a livello regolamentare: si parla tanto di tecnologie per l'aiuto agli arbitri e ai direttori di gara, ma sarebbero loro i primi. Io sono un ex arbitro e conosco quasi tutti gli arbitri che operano in Serie A e B. Sarebbero loro i primi a voler utilizzare le tecnologie. In un referendum, in un recente ritrovo dove si stabiliscono le direzioni, le indicazioni del designatore, è stato chiesto loro se loro volevano un aiuto tecnologico, e 38 su 40 hanno detto che se serve, ben volentieri. Quindi non, Nicola, sono loro che sono protagonisti. No, certo, Nicola, abbiamo i mercati che incombono. Non è in discussione questo. Bisogna vedere se servono, hanno detto. Bisogna vedere se servono. Se vuole parliamo della moviola in campo, a che cosa sarebbe servita nell'episodio di Adriano. Ne parliamo nella prossima mezz'ora, ma ne possiamo parlare nei prossimi sei mesi. Un ascoltatore di nome Rino mi informa che negli Stati Uniti hanno eliminato la spider cam dalle riprese del football americano per le proteste. Io ve la giro come l'ho ricevuta, perché non sono un grande esperto di sport americani. E se dicessi, scrive invece Daniele da Voghera, che a me le riprese della spider cam sono piaciute, la sua crociata mi sembra eccessiva, io, se me lo dicesse Daniele, io leggerei il suo messaggio, molto semplicemente, anche perché mi sembra giusto dar voce alle minoranze, come sempre, e in questo caso le minoranze davvero piccoline, ecco, proprio molto molto sottili, perché le garantisco che c'è un plebiscito addirittura per il fastidio provato la sera di domenica per le riprese di Sky. Ci sono gli ascoltatori di nuovo collegati, ma un istante solo, perché ho parlato di Livorno-Bari. Completiamo almeno il quadro delle partite di stasera, perché c'è un turno di Serie B infrasettimanale, e certo il clou è lo scontro al vertice tra le due che comandano la classifica, Livorno e Bari, che sono a 45 punti. Poi si giocano Albino Leffe Sassuolo, Ascoli Mantova, Brescia Ancona, Cittadella Treviso, Frosinone Parma, Grosseto Avellino, Modena Empoli, Rimini Piacenza, Triestina Salernitana e Vicenza Pisa. Ha chiamato Norberto da Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Pronto? Dica. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Mm. Volevo un suo parere sul fatto che nella nazionale italiana trovano posto giocatori normali, giocatori bravi ma normali, come Di Natale e Pepe. Mm. Ora, io sono juventino, però spesso guardo la Sampdoria e vedo che Cassano è un giocatore, credo, di un'altra categoria. La cosa, quindi volevo sapere se lei è d'accordo su questo fatto, che Cassano non può non trovare posto nella nazionale italiana. No, non sono d'accordo. Non è d'accordo? No. No, ma la cosa più importante è che lei, come tanti altri giornalisti, quindi nessuno obietta al signor Lippi di tenere fuori un talento come Cassano. Mm-hmm. Lo obietti lei, Norberto. Invece a me pare che ci siano molti che glielo obiettano e glielo fanno presente. Io sinceramente questi discorsi mi riescono ad appassionarmi entro certi limiti se si è alla vigilia di partite importanti della nazionale, europei, di mondiali, di cicli. Sinceramente, per amichevoli come è stato nel caso più recente, mi coinvolgono meno. È un discorso vecchio quanto Cassano, quindi è vecchio ormai di 10 anni di carriera, direi, no? Se si parla di talento, vediamo di riassumerlo proprio, di farne una radice quadrata. Se si parla di talento, è chiaro che Cassano non può star fuori da alcuna nazionale, compresa quella italiana. Se si parla di affidabilità, è chiaro che Cassano può stare fuori da qualsiasi squadra e non solo da qualsiasi nazionale. Si tratta di scegliere. C'è chi fa una scelta in un senso e c'è chi la fa in un altro. Mi sembra che sia uno dei pochi punti di contatto questo tra parecchi allenatori e Lippi, perché non mi pare sia il primo che decide di farne a meno. E non mi pare che quando è stato chiamato, deludendo tra l'altro anche me, perché c'è stato un tempo, per esempio prima dello scorso europeo, in cui davvero la candidatura di Cassano era al di là della candidatura, davvero sembrava il momento giusto, no? per il suo utilizzo, impiego, la lievitazione, sembrava aver messo la eccetera eccetera eccetera, poi invece in realtà Cassano non ha cavato un ragno al buco nemmeno lui, a dimostrazione del fatto che è uno di quegli sport, il calcio, contrariamente a quanto molti continuano a credere, e i palloni d'oro contribuiscono a far pensare, è un gioco da 11, non è un gioco da 1. Francesco da Roma, buongiorno. Buon pomeriggio. Dica. Allora, torno al tema della trasmissione della Spider Cam. Allora, io dico, se per fastidio si intende l'effetto mal di mare che può aver creato il cambio di ripresa, il cambio di campo nelle inquadrature, possiamo essere d'accordo. Ma devo dire che a me domenica sera tutto questo mal di mare non l'ha creato, forse perché abituato a vedere giocare i miei figli con la PlayStation, però ecco, nella PlayStation questi tipi di inquadrature diverse vengono fatti nei replay delle azioni, nel senso che l'inquadratura è normale dal centro della tribuna e sui due lati, mentre nel replay c'è questo cambio di campo e si vedono delle inquadrature diverse. E quindi forse, se fosse usata solamente nei replay, potrebbe avere una sua validità anche per scoprire certe cose che con una telecamera piazzata al centro del campo potrebbero essere sfuggite. Francesco, io parto dal presupposto che meno si scopre nel calcio meglio è, nel senso che il gioco è quello, la velocità è quella e le possibilità di vedere e di valutare sono quelle. Se lo trasformiamo, per l'appunto, come lei ha detto, no? Ha fatto un esempio quanto mai cazzante, in un videogioco, allora non è più il calcio, è un videogioco. È un videogioco che prende a pretesto il calcio, ma che ha tutt'altri parametri. E quindi non capisco a che cosa porti. Può portare alla curiosità, questo sì, e io sono stato il primo a dirlo, qualche curiosità. Il problema è che la curiosità in questo paese, non solo nel calcio ma soprattutto nel calcio, la curiosità è malsana, e quindi tanto se vogliamo preservare quel minimo che rimane, non so quanto sia utile soddisfare le curiosità malsane. Lorenzo, Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno signor Gigi. Dica. Io chiamavo per un chiarimento. Io, sempre rifacendomi al discorso della richiesta di prova televisiva per Adriano, confrontavo due episodi con quello di Gilardino. E lei ha detto che la richiesta di prova televisiva per Adriano non è che sia, insomma, stata una cosa tanto buona da parte del procuratore. Però ecco, non mi ricordo che lei l'abbia detto nel caso di Gilardino. E poi un'altra cosa però, fra quella di Gilardino e quella di Adriano, lei, mi ricordo, ieri in trasmissione disse che quella di Gilardino era stata un altro genere di furbata, certo. Quella di Adriano mentre una cosa più goffa, certo. Però ecco, io la differenza fra le due la vedo solamente nel fatto che, secondo me, e poi c'è un modesto parere, Adriano ha avuto la freddezza di non avere l'incertezza prima dell'esultazione del gol. Ecco, per me la differenza fra le due è stata solo quella. Beh, già non è poco, già non è poco, perché se pensiamo al cinema che fece Gilardino dopo quel gol. Sì, no, esatto. Ecco, diciamo, mi si è rizzato la pelle nel caso di Gilardino quando commentò il dopo partita, così mi si sono rizzati la pelle quando Adriano è andato con nonchalance dicendo no, io ho fatto una cosa involontaria, che secondo me non è involontaria, io la penso come lei. Comunque, ad ogni modo, ecco, io penso che questa prova televisiva non valga la pena farla, vale molto più la pena farla nel caso di Inzaghi, anche se la penso come lei, però ecco... Io sono d'accordo con lei fino al punto in cui, lo dicevo già prima, la prova televisiva era nata per gravi fatti disciplinari e come tale secondo me dovrebbe restare. Ora, se si parla di una... perché quella di Gilardino fu ammessa e prima della sua ancora un altro tuffo, un altro paio di tuffi in area, uno proprio di Adriano e un altro ancora di un giocatore che non ricordo, 3-4 anni fa. Perché? Perché quella è il crinale, no? della motivazione disciplinare. Siamo sulla china, nel senso che è una scorrettezza, ma morale, anziché una scorrettezza ai danni di un avversario. Non è un colpo, è una furbata. Per Girardino secondo me ci poteva stare, per Adriano no. Se mi chiede una ragione scientifica non gliela so dire, se non azzardando un paragone, l'ho già tentato ieri, non mi viene, cioè mi viene elefante per Adriano, cioè la destrezza non fa parte credo del bagaglio dell'elefante o dell'orso, se crede la destrezza fa parte del scelga lei un della gazzella, insomma, scelga lei un parallelo che ci possa stare per Girardino, che è molto ma molto più agile e più svelto di riflessi. Tutto qua. Sentiamo ancora Cesare da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, scusi per la voce, ma il vento di Milano purtroppo sì. Colpisce. Sì. Volevo chiederle due cose, signor Garanzini. La prima, un suo parere. Allora, nella prova televisiva, che evidentemente per Palazzi si chiama Prova Inter, ma non è più da prova televisiva a questo punto in mani del giocatore del Bologna nel pareggio del Napoli? No. Primo. No. Nella seconda, invece, non è una domanda, è una mia opinione. Secondo me abbiamo visto uno dei più bei derby degli ultimi anni. Non c'è dubbio. Inutile rovinarlo con questo, perché anche l'Inter all'andata perse su un gol in fuorigioco, nessuno disse niente, anche se era 1, 2, 3 centimetri, però secondo me il Milan lì meritò. Come secondo me ha meritato l'Inter di vincerlo. Non mi ricordo però il fuorigioco, non mi ricordo il fuorigioco l'andata. Il fuorigioco di Kakà quando crossò per la testa di Ronaldinho sul lancio di Ronaldinho per Kakà. Nessuno gli disse niente, ma il Milan meritò e difatti fu giusto così. Mm-hmm. Però io dico fino al trentesimo, fino a quando ha segnato il Milan, io ho visto un derby dove veramente le azioni da gol potevano essere 5 o 6 per l'Inter. Secondo me se Adriano non sbaglia il terzo gol all'inizio del secondo tempo rischia di finire veramente, scusi, con un risultato abbastanza ampio. Certo, è la tesi Moratti e quindi come tale è una tesi certamente illuminata. Riccardo da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Dunque, io sono un appassionato di rugby. Eccolo qua, mi scusi, un istante solo. Un ascoltatore mi ricorda che era Ilic del Messina, quello che aveva simulato e beccò 3 giornate in un Messina Udinese. Mi scusi, abbia pazienza. Prego. Era giusto allora, perché, sì. Allora, niente, sono solamente intervenuto in quanto appassionato di rugby. Sì. Per consigliare a quel regista della trasmissione che ha fatto la... Sì. Trasmissione su Sky l'altra sera di guardarsi la partita del Sei Nazioni di sabato della Francia. Io sono un grandissimo appassionato, ripeto, di rugby anche televisivo oltre che dal vivo e posso dire che le riprese che hanno fatto i francesi e che sanno fare secondo me solo i francesi anche nel ciclismo e lei immagino, spero sia d'accordo con me, sono veramente inarrivabili, hanno fatto vedere qualsiasi cosa con qualsiasi dettaglio, è stata una cosa veramente splendida, così si vede lo sport e non avevano delle tecnologie non così sofisticate. E non facevano i fenomeni, facevano i registi e cercavano di illustrare lo sport, una disciplina sportiva e non un videogioco. La seguo in pieno, Riccardo. Ma che Ilic, si chiamava Iliev, il giocatore del Messina, che si era tuffato in aria e che beccò 3 giornate di prova televisiva. Iliev, d'altra parte la memoria ormai è questa. Nicola Palermo mi scrive, forse lei non ricorda che Cassano è stato il migliore all'europeo, un vero fuoriclasse. No Nico, non lo ricordo, ma in questo caso non credo che c'entri la mia veneranda e disastrosa memoria. Memoria uguale Nicola Filippone, uguale il ripasso di storie di oggi. Sembra ieri. 17 febbraio 1943. La guerra mondiale coinvolge anche le celebrità dello sport e così gli Stati Uniti vivono come un evento l'arruolamento in una base della California dell'asso del baseball Joe DiMaggio. La stella dei New York Yankees entra a far parte delle forze aeree con il grado di sergente. Eviterà i teatri di guerra, ma per i successivi 2 anni e mezzo dovrà prestare servizio in varie caserme del paese come istruttore di educazione fisica. Nel 1946, nella prima stagione sportiva post-bellica, DiMaggio tornerà ad essere il faro degli Yankees e il giocatore più pagato del baseball. La sua carriera professionistica durerà fino al 1951. Torniamo con un'intervista che ascoltiamo adesso, tratta credo da Sky e che ha per protagonista Buffon. Il positivo è sempre stato importante per noi, anche negli anni d'oro credo che che fosse diventato l'obiettivo primario dei tifosi e della società. Adesso chiaramente le mire sono cambiate, ci acconteremo tra virgolette di uno scudetto col sorriso sulle labbra, però insomma alcune volte devi fare anche di buon viso a cattiva sorte, no? E devi vedere anche quello che rimane sul tavolo, e per cui in questo momento ci sbilanciamo un po' di più sulla Champions, visto che potrebbe sembrare un po' più vicina, ecco, rispetto al campionato. Insomma, io è da luglio che vado avanti con questo discorso e mi auguro che lo possiamo confermare, perché poi alla fine ora se ne parla, ma il giorno della verità si avvicina, per cui c'è da confermare quelli che sono i nostri auspici. Nel momento in cui si esonera un allenatore, uno scossone c'è sempre, spesso è positivo. Poi se l'allenatore che arriva è uno preparato come Hiddink, è chiaro che è un dispiacere per noi. Sarebbe stato meglio che Scolari fosse stato esonerato dopo la partita con la Juve. Questo il Buffon a una settimana da Chelsea-Juventus e dal ritorno in campo, insomma, delle coppe europee, vi ricordo Arsenal-Roma e Inter-Manchester United. Tocca a Enzo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, Sandro Garanzini. Dica. La seguo da tempo e mi trovo quasi sempre d'accordo con lei. Non so a quale squadra tifa. Dunque lei è di Bergamo, all'Atalanta. Mi sembra che quando parla di Milan si apre il cuore, vero? No, proprio no. Proprio non ci ha preso, ma proprio lontano. Sai quando si dice acqua, fuoco? Proprio acqua. Vabbè, poi, okay. Dopodiché, dopo sta fesseria, ha di meglio in campionario? Prego? Ha di meglio in campionario dopo questa fesseria o... No. La seconda domanda era quella che importava per sì, me. Ecco, bravo. Dunque, se le posso rubare ancora un po' di tempo. Sì, dunque, quello che vuole. Anche perché è partito bene, quindi. Tornando al tormentone Adriano. Sì. Le posso fare una domanda? Sì. Se quello che è successo fosse avvenuto in area dell'Inter, secondo lei era rigore? Era rigore in che senso? Cosa vuol dire rigore? Cioè, nel senso che se Adriano avesse toccato di testa e poi con la mano come sembrerebbe o come è successo, ma la cosa fosse avvenuta nell'area dell'Inter, era rigore per il Milan secondo lei? Direi di no. Quindi se non è rigore il gol è regolare. Questo lo dice lei, c'è un po' di differenza tra, vede, in genere per mandare la palla nella rete avversaria si sostiene in dottrina che si usano le gambe, i piedi o la testa, le braccia meno, il movimento che Adriano fa, qualcuno dice lei si è messo a guardare la moviola perché se n'è accorto dopo, no, si vede subito che la palla entra in rete in maniera innaturale, perché il cross di Maicon è di una bellezza assoluta. Se un giocatore normale entra di testa su quella palla, spacca la porta, ma senza bisogno di colpirla forte, semplicemente mettendoci, opponendo la fronte, la violenza della traiettoria è scritta. Se la palla entra scagazzata in rete, no, a quella maniera, vuol dire che c'è qualcosa che non torna. Allora, noi stiamo seduti in poltrona a volte centinaia di chilometri o comunque a qualche centinaio di metri, insomma, di distanza. C'è uno invece con altri tre collaboratori che è dentro il campo e che è deputato a quello. Secondo me, se non siete puzzeri bruciato subito è perché gli è sfuggita una cosa decisiva. Dopodiché, lo scorso anno Collina depenalizzò diciamo la sequenza testa-braccio, spiegando l'episodio Couto e spiegando che aveva avuto torto l'arbitro e quindi spiegando che era stato fatto un regalo all'Inter, intendiamoci. Stavolta, sempre con un episodio all'Inter favorevole, a proposito di congiure denunciate da Mourinho, sempre con una valutazione di questo genere, è un episodio offensivo anziché difensivo. Io credo che l'interpretazione in un caso così possa essere leggermente diversa, però ormai ci sta tutto, quindi... Quindi non credo, non mi stupirei invece se la verità poi, ammesso che esista, fosse un'altra. Da Treviso ha chiamato Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno. Io la chiamo da ex giocatore di rugby. Sì. E quando vedo scene tipo quelle di Inzaghi, io dico, ma il calcio quando intende copiare dal rugby cercando di imporre quello che poi non è nella natura del calcio, tipo il terzo tempo, ma perché invece di copiare queste cose non copia il fatto che ad esempio in campo con l'arbitro può parlare solo ed esclusivamente il capitano, certo. Sempre che l'arbitro poi gli conceda anche la facoltà di farlo. Certo. E vedendo certe scene io penso, sì, prova televisiva a questo punto sì, ma solo per far cosa? Per dare una bella punizione, sanzionare certi comportamenti che a questo punto sono veramente... Cioè, se poi questi sono i campioni che dovrebbero dare l'esempio, educare i giovani che si avvicinano a questo sport, io dico che allora ben venga la prova televisiva. Su questo non c'è dubbio, Enrico, anche se devo dire che lezioni di comportamento Inzaghi ne ha sempre date poche in carriera, quindi da questo punto di vista la sorpresa è abbastanza relativa. Diciamo che ha 35 anni e passa, e in favore di telecamera e in maniera reiterata, stavolta forse è esagerato, ma non c'è nulla di inedito, ripeto, anche perché non è una protesta istintiva, è una strategia ben precisa per condizionare l'assistente, mi creda. Da Parma, Vittorio, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io volevo dire anzi due cose, ma velocissime. La prima è che quella il fatto della prova televisiva mi fa molto ridere, perché adesso si attaccano tutti a sta prova come se fosse la cosa sacrosanta. E comunque secondo me non ce ne vengono a capo lo stesso, e spero che Adriano non venga squalificato. Detto questo, poi per quanto riguarda il rugby, perché io sento che ogni tanto telefono a qualcuno del rugby, io vorrei che il rugby avesse la stessa popolarità che ha il calcio, gli stessi miliardi che ha il calcio, e sarebbe anche peggio, e la Sky, come si chiama, la Sky Cam, là, quella sì, che tira. Sì, ecco, sì, dopo sì. vorrei vedere se fila tutto liscio. Beh, come dice certa gente, tutto qui. Vittorio, a parte che con quell'accento lei può dire ciò che vuole, ma ha detto una grandissima verità, tant'è vero che da quando nel rugby è cominciato ad arrivare un po' di denaro, già non stiamo più parlando del rugby di prima, e ho l'impressione che ce ne accorgeremo a maggior ragione andando avanti, ammesso e non concesso che il sistema italiano rugby invece non frani, visto che era stato costruito senza le fondamenta, no? Da tanti punti di vista, e quindi questo paradossalmente potrebbe essere quello che lo salva, ma che lo salva facendolo tornare indietro. Da Genova, Massimo, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì. Senta, io volevo parlare riguardo al gol di Adriano, no? Dicendo che sarebbe bello, ma non mi aspetto più di tanto che un giocatore dica all'arbitro: guardi, ho sbagliato, l'ho fatto apposta. Ma io, parlando di Moratti, che è uno che in parte, anzi sicuramente ha ragione, si è sentito defraudato per anni, no? Quando domenica sera vede che un avversario viene defraudato, invece di dimostrare empatia per questo fatto, dice: avremmo vinto comunque. Ecco, questo forse mi lascia più perplesso rispetto agli atteggiamenti dei giocatori. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che lo pensi davvero, e penso che abbia anche qualche ragione per pensarla. Cioè, il calcio è talmente opinabile, Massimo, che può essere una frase di cattivo gusto, e su questo secondo me non ci piove. Ma lui ha anche il diritto di pensarlo, perché l'Inter ha avuto occasioni prima e dopo, e prima che il Milan si svegliasse. D'altra parte, ripeto, nel calcio, sa cosa ha detto Mazzarri domenica alla fine di Juventus-Sampdoria? Ha detto che se Cassano era un po' più freddo in una occasione per raddoppiare, la Sampdoria avrebbe portato via meritatamente i tre punti. Ma la Sampdoria domenica è stata presa a pallate dalla Juventus. La Juventus, se contiamo i pali, il gol che ha segnato e le occasioni che ha avuto, doveva vincere con 3 o 4 gol di scarto. Però secondo Mazzarri il pareggio andava stretto alla Sampdoria, non alla Juve. Mi creda, non c'è difesa. Andrea da Como scrive: Garanzini, caro Garanzini, lei non solo è milanista, è anche berlusconiano. Non c'è difesa, ripeto. Buon pomeriggio a tutti, dopo aver salutato Filippo Aureggi in regia e Flavio Suardi in redazione.